Alessandro Lanzone, sì, conosco benissimo Lanzone, ero di quando ero bambino, diciamo, lì c'è la scuola. Eravamo con mio cugino, ho detto va, va per capire la dormita, va per scato, ho detto va, ci guardiamo un film, perché c'è quel, come, cioè, come tipo un tablet per mio. Stiamo guardando un film comico, faceva ridere. Andare, andare. Papà, adesso sono troppo rientro in movimento. Secondo me sì, Santiago 7. Se vai su dove c'è la pinetta, arrivi più forte. Caso ho perso, eh? Ce l'ho S7 ma la radio non arrivo. Mezzo palazzi, Sì. Va bene. E Gianni, non senti eso? Sì, stasera sì. Sì, già lo so, ce l'ho anche io. No, stasera, no, non di pomeriggio. Sì, stasera che tratta anche Claudio. Con Pappi, c'è di coi pisi. No, veramente no, non mi ricordavo. Hai rimosso, vivi rimosso questa situazione? Sì. L'avevo rimossa, cancellata pure, boh, figurati. Va bene. No che ti sembra la gente quando te la mancia il lutto. Minocca, bisogna pigliare e cominciare a rimunire un poco di roba. Tipo? Tipo posso dire? Mi ho fatto una sorta di banchetto, ho due microfoni aperti, ho un... sto controllando altra roba e devo ultimarmi questa roba qua. C'ho il Tarnet che ce l'ho, me lo sto riparando, ho l'MP4 me lo sto riparando, ho il sto riguardando quel rosmetro che mi hai regalato tu, o che aveva un componentino da cambiare e niente, però tutta roba senza pezzi, senza componenti, sto aspettando che mi arrivino. E va giù il tuo banchetto, no? Che devo stare attento come gli do magari qualche colpo, perché ho tutti i componenti segnati, incollati, e secondo momento che mi muovo è un disastro. Allora non mischiare niente. No, per carità, mi non mischiare niente, perché poi mischiare fa male. Io che adesso mi sentite abbastanza bene. Poi se mischi fa male ti viene mal di testa. E tira che io. Cosa? E poi tira che io. Yes. Oh, del rem ce l'ho spento, perché c'è un rumoraccio. C'è un rumoraccio, sì. No, io c'ho questo acceso proprio. Che ci trovi in roba? Su Bari sempre uso il strangolente. Mentina. Su Bari sempre uso il strangolente quando va vita. Così, la sua voce così. Ah, lo sai che su Facebook mi ha chiesto l'amicizia Elisabetta Canalis? Ma stai scherzando? Ma è vero? Sì, la vuoi anche tu come amica? Te la mando? No, mi basta Belen. Belen, va bene. Anche Samira me l'ha chiesto l'amicizia. Mi ha mandato un messaggio e dico, dai, non mi dire, mi ha chiesto l'amicizia, dai. Te le immagini, mandagli un messaggio. Ciao Elisabetta, ma te ricordi quando giocavamo da bambini? Te ricordi quanto eri brutta? No, quanto eri donta, perché chi l'ha conosciuta era donta, vero, eppure vedi che ha fatto carriera. Secondo te chissà cos'è? Persona intelligente, persona che può fare un ragionamento sensato. Sarà tonta come entra nappa. Pacari dai. E quelli possono fare solo è stata furba, però in fondo non venuta a me, cioè se tu guardi di proprio sì, tutto quello che vuoi, però sei donta, è un gioco, io è un gioco addirittura, se non è illusa male, e tutto quello che vuoi ci sta, è vero, però cioè... Boh. Ce ne sono di video anche senza aver fatto successo, ti. Vabbè, ma cosa c'è, sono notte nel suo personale? No. Assolutamente. A me non mi entra niente in tasca. Lui? Stesso. Cinque colpi fucile, via. Prova. Via. Questa radio come Richard non mi piace proprio niente, lo sai. Siete bella in trasmissione tutto su di voi, però questa radio in ricezione è uno schifo. Perché? Vabbè, forse avevo l'altra radio accesa, mi guardo. Adesso c'ho il PC. Vediamo se c'ho. No, è proprio. C'ho anche l'autoparlante esterni buoni, ma no. Non mi piace ricezionare questa radio, devo mettergli qualcosa che migliora la ricezione, perché è un... trasmissione bella, quello che vuoi, però no. Ma poi se lo dassi con l'autoparlante su, fare quei giochi delle giostre. Sentite! Sì! Ma sappa, vai! E come fai? 6-9-20! Va bene, va! Sì, anche qua. 9-9-9-S9, Antu. Grappa. Già va bene, dai. Che antenna stai utilizzando, Antu? Magnum. Lem. Lem Magnum. Lem Magnum. Ma è a base magnetica? No, è fissa. Non ho capito cosa hai detto, ti? No, non ho sentito. Magnetica. Yes. Metti la Turbo 2001, e vai piano e vedrai che il mondo ti cambia totalmente. L'Atari, quella è anche, forse era già tarata, è un po' lunga, però metti la Turbo 2001 ed è un mostro. Ma è la radio che non fare a nulla, se no già pompa l'antenna. Io mi sono accorto che la Turbo 2001, anche la mini, cos'era? La Lem Mini, forse c'è l'attino quella lì, la Mini Turbo 2001, anche quella lì, e quella è buona. Poi avevo preso la Turbo Star, Turbo Star 3001, Turbo Star mi sembra che si chiamava, era 2,50 m, guardala in internet, una antenna, era bella, quella lì era impegnativa. No, io c'ho quella mini, che però non mi ricordo si chiama, sì, l'avevo tolta per mettere la mia. La Mini Turbo, è buona quell'antenna, è buona quella, la Mini Turbo è buona. È un po' più caricata, però è meglio di tante altre antenne. Io con la 3001, l'M2000 Turbo Star, 3001, forse il 3001 Turbo Star si chiama, l'avevo ordinata a Marzia, l'antenna me la arrivi da Gito, e che cosa? Pensavo che proprio la bobina grande, proprio lo stilo grosso, l'antenna. E l'avevo provata con la base magnetica, l'avevo utilizzata, pensa, due volte l'avevo utilizzata, con l'S9, col Magnum, con l'S9, cioè era assurda, piegava camminando a 40-50 km/h, secondo me fletteva anche la capotta. Davvero? Sì, grande era. Era massiccio. Beh, io un altro paio di passaggi e chiudo. E mi seguo. Basta, finito. Scappa. No, questa è una bella antenna. Va bene. Solo che Saracchino che l'ha una spinta. E Anto, un amplificato devi mettere lì. Devi mettere un amplificato palmare e va. Questo Aspetta, mi sono comprato la scatola, sto qua, madonna. Cosa? Mi ha soffiato nel corpo, ho fatto... E ho fatto un po' di... come per dire, cosa cacchioso. Ci sono vent'anni, ci sono vent'anni. Vai, ma cocco. Brutta, ci ho compreso. Ma poi c'è questa radio, da una ricezione di merda. Ma può essere che, non so, cos'è che non hai capito? Ho detto che Nicolas è venuto dietro alle spalle e mi ha soffiato come per dire, ha fatto così, no? E io ho sensito un po' il collo e lui ha convinto che mi sono spaventato. Ah ok, adesso hai scandito le parole, ti ho capito. Perfetto. Nicolas, la prossima volta una bottiglia d'acqua. E dove? Nel collo. Bella fredda da fuori. No, ho intorzito un pochino il collo perché ho sentito aria, no? Quando ho fatto pa! E allora ho fatto così, ma non è che mi sono spaventato. Ma sto dicendo, la prossima volta invece di soffiarti, deve buttarti una bella bottiglia d'acqua, quella da 2 litri, tenuta fuori. Bella, bella, prima in frigo e poi messa fuori. Così ti spaventi. E va bene. Domani che cosa ha messo? Acqua? Domani non lo so. Domani quando mi alzo te lo dico, compa, non lo so cosa, no, ma ha messo, mi sembra che vento, allerta vento e pioggia niente, e tempaccio, cioè tempaccio, non se ne comprende nulla. E vabbè, quello che vuole faccia. Non mi interessa proprio, tanto domani, allora che ne ho voglia mi alzo, se ne ho voglia, vediamo di tagliare un po' di legna e poi basta, niente di che. Vediamo di la legna, ti? Presa, ho preso un furgone pieno. Diciamo che ce ne potevo fare anche di più, però non ho voluto fare l'ingordo, nel senso che adesso mi taglio questo, poi mi rimane troppo sulla mezza testa, dai. Metto quando ne vuoi, vieni e te la prendi, quindi non c'è problema. Sì, vabbè, intanto poi ti si fa casino, ti si fa magari, vabbè che già non gli dai tempo, non abbiamo utilizzato di tempo, però ti si fa di tipo un rifugio di topolini, queste cose qua, e ti crea un disastro. No, è che bisogna tagliarla, spostarla da lì perché sennò rimane in mezzo ai piedi, metterla nella legnaia, quando mi serve vado la prendo, però in quel caso faccio prima a farmene per dire uno o due quando mi servono e ce l'ho sempre conservate. Sì, è un casino, quando va visto anche il pellet quanto è salito, cioè 7,20€, 7,50€, non si sa più cosa fare. Un giro di conti convengono più le pompe di calore, non è lo stesso caldo, però convengono di più le pompe di calore elevato. Se tiri due somme, quando consumi ogni settimana, consumi 3 sacchi di pellet alla settimana, sono 7x3, 21, 2, 4, 6, 8, 84 euro, fai 90 euro di pellet al mese. 90 euro di pellet al mese, ma secondo me 90 euro di luce con la pompa di calore non li spinge al mese. Non lo so, io sono un po' così, sono un po' scettico perché la corrente un bel di volte paghi anche quella che non consumi, quindi basta che attacchi una cosa, tutti mi dire, ma ho toccato la scuola da bagno, cazzo, quanto ho consumato questo mese. Lo so, però, cioè fai 9, 18, secondo te tu 180 euro di corrente consumi con le pompe di calore? Allora, a me mi è arrivata una bolletta da 213 euro in 2 mesi, quindi suppongo che 107 euro dai, al mese, se continua così va bene, però se mi mette altre cose tipo bollettone, allora non va più bene. Anche a me è arrivata 206 in 2 mesi, con Gaxa sempre. No, io ci sono già 2 anni con loro, faccio 2 anni a giugno e nessun bollettone, hanno mantenuto sempre la stessa tariffa. 200 sì, e mi arrivava a 100, in genere ero intorno ai 150 ogni 2 mesi, 160 ogni 2 mesi, però aspetta, sto mese io ho utilizzato un po' di corrente in garage, un bel po' di corrente in garage ho utilizzato per fare dei lavori, per fare le prove, è rimasta roba attaccata anche 2 giorni provando da 1 kW fisso, quindi stava, il consumo è stato quello. Mi ha risposto, come va? Adesso ho scritto sì, l'ho fatto, ci sono stati problemi, aspetta, sì l'ho fatto, ci sono stati problemi, e ho scritto ciao, ti sei ricordato di me? E quindi il consumo è stato quello, altrimenti, ma perché a bollette alte ti sono arrivati con Gaxati? No, bollette grandi no, sto prendendo un pochino di tempo io perché era poco più là. E vabbè, scadenza febbraio, ce l'hai quella di questo mese? Sì. Scadenza 15 febbraio, ehi, puoi usare la paghi il 15 di marzo, usi la piglia in fianchi. Infatti. Buongiorno, sennò no, dobbiamo pagarla subito. No, ma infatti. Dai. se poi ti mandare la lettera. Respira un po'. E allora, io sai quanto le faccio aspettare. Lo so. Però qua arriva la cosa subito, tum, tum, porca miseria, falli soffrire un po'. Ma scritto, in realtà non riesco a ricordare. Ma stai scherzando, ma gli hai chiesto veramente l'amicizia? No, vedi che l'ha chiesto a me. Ma come fa a chiederti l'amicizia se poi non si ricorda? Ma cosa imbriaga lì? Raccontami qualcosa di più su di te. Io non si che dopo quegli anni in giro, Infatti adesso scrivo, avevamo un vicino. Io ti vendevo le barbabietole quando eri piccola. Ebbene tu, lì sei arrivato. Camiseria, fondo scala sì, Adesso ti rompo, adesso aumento e ti rompo la radio. Sì. Guarda il segnale a vedere. Nove segnali? Ah, ok. Sei vicino, dai. Già siamo vicini. Già mi dovresti sentire. va bene. Ha cambiato perché la radio da doveria qua? Tino, vieni avanti, guarda vedere se ti copia. Certo che lo copio. Io lo sento benissimo. Vai, Antu. Santiago 9. Arrivi. Aspetta che mi sta rispondendo, No, non si è decisa. Io mi ricordo benissimo di te. Sì, guarda che abbiamo passato anche, gli abbiamo fatto anche un campeggio insieme, Lidio. E dove? A Pazzoa. Ehi, a Pazzoa, dici vicino, digli a Micciarida, digli. A Micciarida. Digli a Micciarida, abbiamo fatto un campeggio insieme a Micciarida, non so se ti ricordi, tuo padre aveva la baracca, digli. Va bene, continuerò questa conversazione altrove. Così ti ha detto. Yeah. Sì, io scrivo, sì, abbiamo fatto la cassa, io scrivo. Dici, guarda che, tu dici, guarda che io non sto scherzando, guarda che abbiamo fatto, gli dici, un campeggio assieme a Minciarita, ti ricordi che eri quella che mangiava sempre, tu dici, mangiavi sempre la sabbia a terra, dove facevo la pipì, scriviglielo. La... Antonino c'ha amica importante, con Elisabetta Canalis sta, capito? Con Elisabetta Canalis, quindi dice che lui adesso ti sta ricordando i vecchi ricordi, capito? Devo dirti qualcosa che lì ha fatto, adesso non ricordo cosa. Oh, guarda che Dewalt sta dando un kit di attrezzi, avvitatore e tassellatore, se riesce a completare un sondaggio. Il problema è che non riesce ad andare a fare il sondaggio. Secondo te? A chi te lo devo regalare? Perché vai a entrare nel sondaggio e devi fare la fila. Allora. A domo. A coricare. Anto, io quando sto arrivando io con la tua radio, guarda un pochino, sei lontano da me, Gabino è più vicino di te, però... vabbè, no, non mi hai detto però... Adesso ti sto per piegare l'antenna. Va bene. Dinos. Mi sembra che mi curicus. Va bene, cosa vuoi fare? C'è anche io. Intanto faccio compagnia un po' a Antonio e poi anche io mi corico. Tanti cani hanno già mangiato oggi, tranquilli. Hanno mangiato meglio di me loro. Loro hanno mangiato meglio di me. Ma mangiano sempre meglio di me. Sì. Va bene, signori. Ci sentiamo. Sentiamo domani se coincide, ma. Vediamo un po' di farlo coincidere. Va bene, ciao Anto, buon rientro e buon tutto e ciao Tino, buon proseguo di serata e buonanotte. E buonanotte anche a chi l'ascolto. Ciao, chiudo. Va bene. Ciao Gabi, sentiamo domani se coincide, tanto io domani sono a casa, quindi non è che devo fare grandi cose, quindi può darsi che mi attacco anche un pochino la mattina e vediamo un po' cosa nasce fuori. Tempo permettendo vorrei tagliarmi qualche pedale, però adesso vediamo. Andare, ciao, buonanotte, ciao. Saluti da Nicola Sanchi, vai. Ciao Gabi, buonanotte. Ciao Nicolas, buonanotte, e la prossima volta buttare la bottiglia dell'acqua, perché intanto il soffio non gli fa niente. Ciao, buonanotte, ciao Nic. Ciao. No, io sono ancora qua. Sì. Sì, va bene, nella zona tua, salendo dalla Budinuzzo. Piano piano, piatto gattoni. E io non mi ho avuto di fuoco, se non è stato già a casa. Ma 80, dai. E che motivo hai di correre? Vai piano che hai un bimbo dietro. Sono a 80, non ho piano quando a 2 all'ora. Sì, ma non c'è bisogno di correre, fregate. Non ce n'è fretta. Comunque, non mi hai detto niente, com'è andata? Ah tu? Pittino! Ho detto, non mi hai detto niente, l'hai assaggiata almeno. Roba seria, Già è buona, però voglio... ne ho messo un pochino di meno ai condimenti quest'anno, va. Però già va bene lo stesso, un po' delicata e carne dolce, già va bene. Ti ho dato pure un pezzettino piccolino, riesco a farla assaggiare. Ma non esagero perché è piccolino. Cazzo, dopo di furia, no, tocca la salsiccia, non ti do più. Buon intenditore, Gabriele. Buona, in particolare, ti ho fatto la pizza oggi. Buona, buona, poi con la pizza l'ho cucinata già, senti più gli aromi, dai. Una volta me la faccio in casa io. Certo. Gabi, ci sei ancora? Dai, rispondimi, devo parlare seriamente, ci sei? Sì, dimmi. Ascoltone, lo sapevo io. Ma no, guarda che è pronta, Ia. Grazie ti. No, non stavo facendo raffreddare l'amplificatore. Adesso devo aspettare ancora di più a farlo raffreddare. Sì, grazie ti, grazie. Magari ci vediamo in questi giorni, così ti porto una cosa. Ti porto una cosa, anche ad assaggiare. E niente, grazie. Faccio raffreddare l'amplificatore, dai. Sì, l'ho messo sotto vuoto, dai, poi quando lo vuoi, te la apri, te la lasci 2-3 giorni e poi te la sgranfogni. Yes. Grazie ancora. Così poi mi dà la risposta se ti piace questo affare che è uscito, dai. Grazie ancora, buonanotte. Ciao Tino, ciao Cristian e ciao Antonio. Chiudo. Rimango all'ascolto ma non riprendo. Via, andare, va bene. Ciao, buonanotte. A te e al tuo cuore. Dove sei arrivato, Antu? Chissà qui va, malefica sono arrivato. Ah, ho capito. 9:20. Quella che ti butta fuori. Vai piano, in trazione non succede. Se non corri. Io lo so. Vabbè. Una volta ero solo, me la giuro a prendere a patta. È brutta, se la prende veloce è brutta. Per chi non la conosce, si può girare anche la macchina lì. Lo so. Una volta in quella curva di Sant'Orsola, l'ho presa incazzata e mi ha tirato il posteriore. Figurati. Certo, con mezzo mancante, buruio, eh. Sì, vabbè, ma chi te lo fa fare? Solo, però. Da solo cammino un bel, ma se c'è Gabriele vado piano. Ho paura che succeda qualcosa. Oh, già sono attento, però. Ehi, vabbè, ma perché rischiare? Ma lascia perdere, fregatene. Dai, io sono il numero uno che adoro correre, proprio. Mi piace correre, però mi sono limitato, che troppo mancante il gioco. A volte l'ho messa di traverso questa macchina, ma ho detto che non ne vale la pena, perché poi, quando cominciate ad entrare in officina, sto tocchi. Ultima volta 400 euro. Allora ho detto, vabbè, dai, cerchiamo di trattarla bene. Fai come me, 800 euro ci ho messo per uno, come si chiama, separatore di calore. Poi mi ha cambiato il radiatore, perché era tutto intasato, poi mi ha cambiato i tubi, insomma, lavaggi, vale vale, 800 euro. Quando ho visto un po' di conti strani, ho detto, boh, farò mancante. Ogni tanto che gliela do una piccola, però poi una boh, basta, no, è finita la storia. Cioè, una volta rientrando da cosa, da come si chiama? Rientrando da Olbia, era di sera, cazzo, mi l'ha giubata, a palla mi l'ha giubata. Ero nel discesone, sono riuscito a farla arrivare a 170, perché lo sai che è un 1200, è piccolo come motore, ma ero camminando che era il Rai, però poi ci ho pensato bene, ho detto, che cavolo me lo fa fare. Poi la macchina stava cominciando a avere che problema, ho detto, ma no, forse è meglio che mi limiti un po'. Certo. Beh, dove sei arrivata? Io che così chiudo tutto anche io. Buonanotte, sto parcheggiando. Buonanotte a tutti. Ah, stai parcheggiando? Basso sì, No. S7 sì. Prova. Santiago 93. No, Santiago 9. Santiago 9. Sono sotto casa. Siamo a casa che arriva a fondo scala. Va bene, dai, ci sentiamo, ciao Anto, buonanotte, tante cose belle, ci sentiamo alle prossime. Ciao. Ciao.